Questa è buona, or la sarà gentar. Che bella notte è più chiara del giorno. Sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar fra Leporello e Donna Elvira. Sei avuto giudizio? Alfi vuole che io faccia un precipizio. E adesso? Ehi, Leporello! Chi mi chiama? Non conosci il padrone? Così non conoscessi? Come Bimbo! Ah, siete voi? Scusate! Cos'è stato? Per cagion vostra fui quasi accoppato! E ben non era questo un onore per te! Signor, bel dono! Via, via, vieni qua! Vieni qua, che belle cose ti devo dire! Ma cosa fate qua? Vieni dentro e lo saprai! Di tante storielle ti dirò un'altra volta, or la più bella ti vo solo narrar. Donne Scalcerco! Non è dubbio! Una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. Le vado presso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole. Dico poche parole, essa mi piglia, sai per chi? Non lo so. Per Leporello. Per me? Per te. Va bene. Per la mano essa allora mi prende. Ancora meglio. Ma carezza, ma abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio caro, allora m'accorsi che era qualche tua bella. Maledetto! Dell'inganno approfitto, non so come mi riconosce. Grida, sento gente a fuggire, mi metto. E pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto. E mi dite la cosa con tanta indifferenza? Perché no? Ma se fosse costei stata mia moglie? Meglio ancora! Qualcuno sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo. Taci, sciocco! Chi va là? Chi va là? Qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore non è questa la statua? Leggi un poco quell'iscrizione. Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna. Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, cui attendo la vendetta. Udiste, io tremo. Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera lo attendo a cenar meco! Che pazzia, ma vi par? O dei mirate, che terribile occhiate li ci dà! Far vivo par che senta e che voglia parlar! Or su, va là, o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco! Piano, piano, signor, ora obbedisco!